Voglio solo chiudere con una segnalazione: Venezia soffoca nella pubblicità, a pagina 19 della Stampa, con anche un commento di Marco Belpoliti. Il doge abitava a Palazzo Coca-Cola, si stigmatizza da parte dei direttori dei maggiori musei al mondo. Che cosa? Queste pubblicità, i teloni giganti sui palazzi. Per esempio, c'è una foto di Palazzo Ducale con i teloni che ricoprono Palazzo Ducale, non si vede niente, ci sono teloni di pubblicità e addirittura, appunto, questa provocazione. Dov'è Palazzo Ducale? Palazzo Coca-Cola, ormai è stato ribattezzato così, con anche Vittorio Sgarbi che dice hanno ragione, cioè questi teloni pubblicitari su edifici storicamente, culturalmente storici, culturalmente fondamentali, che trasformano appunto la nostra cultura italiana in una bella in un bel spot pubblicitario. 24 mattino. L'intervista. E allora alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, il protagonista della nostra intervista di oggi è l'onorevole Fabio Granata, che saluto. Onorevole Granata, buongiorno. Buongiorno a voi. È deputato di Futuro e Libertà, insomma un finiano, visto che bisogna definirvi così per capirci subito. Senta, ha sentito che ieri Berlusconi ha chiesto una commissione parlamentare d'inchiesta per la magistratura, voi lo seguirete su questo? Ma noi abbiamo già chiarito da tempo che consideriamo la magistratura un baluardo indispensabile e insostituibile per il contrasto alle mafie e per la legalità, e i toni di contrasto, di conflitto aperto nei confronti della magistratura non ci hanno mai trovato d'accordo. Direi che questo è uno degli argomenti in cui maggiormente si è accentuato il conflitto all'interno allora del PDL. Adesso, in questo quadro, noi coerentemente al mandato elettorale vogliamo sostenere il governo sui punti programmatici, ma certamente questo linguaggio e queste proposte non aiutano ad andare avanti con serenità una maggioranza che deve tener conto della novità rappresentata da Futuro e Libertà. A proposito di andare avanti, il ministro dell'Interno Maroni ha dato le 3 settimane, cioè vedremo se Futuro e Libertà sarà leale, come, altrimenti si stacca la spina e si va a votare. Ma sinceramente tutti parlano nei retro discorsi di votazioni imminenti. Lei che pensa? Ma io credo che bisognerebbe riportare il ragionamento e il dibattito nei binari della politica, non più delle supposizioni. Noi con grandissima chiarezza, fin da quel giorno nel quale, dopo essere stato espulso dal PDL, il cofondatore dello stesso partito, Gianfranco Fini, ha dato via libera insieme a tutti noi ai gruppi parlamentari di Futuro e Libertà, abbiamo indicato in maniera chiarissima e leale, appunto, una questione che sui punti programmatici sui quali noi siamo stati eletti dagli elettori, cioè i famosi 5 punti che adesso Berlusconi ha riproposto e sui quali ha ottenuto la nostra fiducia, noi non possiamo che essere, come dire, coerenti rispetto al mandato elettorale. La questione vera è su tutto ciò che si aggiunge ai punti, oppure se si vogliono fare delle forzature su ciò che i punti prevedono. Però, faccio un esempio che usiamo sempre: parlare di riforma della giustizia è un elemento certamente condivisibile, parlare di commissione d'inchiesa sulla magistratura questo non è fare la riforma sulla però giustizia. Mi scusi Granata, lei dice i punti ai quali abbiamo dato la fiducia, volevo ricordare, lei ha votato no alla fiducia. Sì, ho già chiarito che il mio è stato un no simbolico e non politico, nel senso che ho voluto dare un segno forte alla campagna di stampa mediatica, e che ancora oggi io ho elementi, anche ulteriori elementi, per continuare a ritenere di dossieraggio autentico nei confronti di Gianfranco Fini. Quindi il mio è stato un voto simbolico, pur condividendo perfettamente la tesi sostenuta all'unanimità dai gruppi di Futuro e Libertà di andare avanti col programma di governo. No, si vocifera che Fini si sia arrabbiato, le abbia detto lei è stato una macchia sulla nostra vittoria con questo. No, intanto non mi dà del lei, e comunque non usa queste frasi altisonanti. Si è molto arrabbiato, lo ammetto, ma il mio è voluto essere un gesto anche un po' provocatorio e, diciamo, anche un po' futurista rispetto al nome che ci siamo dati. Senta, ma perché dice dossieraggio? Lei ha degli elementi di certi? Degli elementi nella ricostruzione di una vicenda sulla quale ci siamo anche stancati di parlare, sono talmente evidenti che è difficile aggiungere altro. Non può essere casuale ricevere 54 prime pagine di un giornale e 46 soltanto perché non esce il lunedì, di appoggio alla vendita di una casa apparentemente sotto costo di un patrimonio privato e comunque legato a un partito, su questioni legate cronologicamente esattamente al momento in cui fine Alzio Dito inizia a parlare di legalità e questione morale, sì, su questioni che gli italiani conoscono un po' più sostanziose. Sì. A me ricorda molto la famosa canzone di Francesco De Gregori, poi vogliono farti credere che tutti sono uguali e tutti rubano alla stessa maniera. Secondo lei, se Futuro e Libertà diventa un partito, Fini si dovrebbe dimettere dalla presidenza della Camera? Innanzitutto io il primo condizionale lo totalmente lo aborirei. Futuro e Libertà diventa un partito. Perché martedì, certo, il comitato, certo, promotore dei gruppi parlamentari crea le basi di questo nuovo soggetto politico, ha un percorso. A quel punto Fini farà una valutazione anche in base a ciò che avverrà nel quadro politico. Noi vogliamo continuare, ripeto, a sostenere il programma e il governo. Se la situazione dovesse precipitare anche attraverso queste uscite un po' estemporanee del Premier, che non ricalcano minimamente i toni invece aperti e concilianti che ha utilizzato in Parlamento, è chiaro che se la situazione precipitasse Fini farà una valutazione in campagna elettorale se guidare in prima persona il partito, che poi sarà un movimento leggero, sarà una sorta, per capirci, sì, di lista Fini legata all'arcipelago che abbiamo creato con Generazione Italia. Ma questo Italia, se si va alle elezioni, ma qualcuno dice nel momento in cui si fa un partito il responsabile di un partito a quel punto, o comunque diciamo la mente grigia di un partito, non può essere anche presidente della Camera. Beh, questa non è la nostra idea, anche perché sia Casini che Bertinotti erano la mente grigia, gli autentici leader dei loro partiti. Qualcuno poi mi obietta, sì, ma quei partiti erano nati prima e non dopo, ma non toglie nulla. Nulla, perché il Presidente della Camera deve mantenere con equilibrio i regolamenti, applicare i regolamenti della Camera, sì, cosa che Fini fa in modo ineccepibile. Tutto il resto è un'altra storia. Un'ultima cosa, onorevole Granata, ma perché qualcuno all'interno del partito dice, ma questo Granata, sempre bastian contrario, sempre a girare con le copie del Fatto Quotidiano sotto braccio, scrive il blog sul sito del Fatto, lo vorrebbero più nell'Italia dei Valori, insomma, lei ci sta bene in Futuro e Libertà? Beh, non so chi lo dica, io sto benissimo in Futuro e Libertà, non ho alcuna volontà di andare oltre questo percorso politico, il mio attuale percorso politico, al quale ho dato un contributo in termini di idee. Noi non siamo una caserma, ci sono sensibilità diverse, anche se devo dire è definitivamente finita la fase un po' ornitologica della divisione tra Falchi e Colombe. Adesso si tratta di misurarci sulle idee. Le idee non sono soltanto legate ai temi della legalità. Noi vogliamo parlare di città, di politiche culturali, vogliamo parlare di tutela dell'articolo 9 della Costituzione, vogliamo parlare di diritti civili e di cittadinanza. Tutto questo implica una possibilità plurale di dare un apporto che Fini finora ha dimostrato di apprezzare alla costruzione di questo, di questa area politica, che è una destra nuova, certamente legata alle proprie radici. Ci vediamo qui, la ringrazio, onorevole Fabio Granata, grazie Futuro e Libertà. Domani appunto si riuniranno per porre le basi al nuovo partito, vedremo come si muoveranno nei prossimi passi della politica. Noi ci fermiamo, poi nel nostro sondaggio parliamo, dopo quello che è successo a Milano, gli spari nella casa nel pianerottolo di casa di Maurizio Belpietro, l'attentato denunciato all'inizio. Noi vi chiediamo, secondo voi c'è il rischio di un ritorno degli anni di piombo, come qualcuno dice, come Giampaolo Pansa denuncia da tempo, come lo stesso Belpietro ha detto, come Vittorio Feltri dice, oppure no? Radio24.it per votare, 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. Tra poco 24 mattino. Quando sono le 8:35 minuti, eccoci pronti per il nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E allora eccoci qua, dopo il fallito attentato a Maurizio Belpietro, direttore di Libero, giovedì scorso ci si interroga, vi chiediamo anche noi, secondo voi tornano, c'è il rischio di un ritorno degli anni di piombo, come qualcuno ha evocato, come lo stesso Maurizio Belpietro subito dopo, come Giampaolo Pansa da un po' di giorni va ripetendo. Ieri il ministro Maroni, ministro dell'Interno, in un'intervista al Corriere della Sera a Fiorenza Sarzanini, ha detto non mi pronuncio sul caso specifico, ma certo ci sono stati una serie di episodi, gli attacchi a Pietro Ichino, a Raffaele Bonanni, e le notizie che abbiamo di possibili infiltrazioni della rete No Global nelle prossime manifestazioni sindacali, che provocano grande inquietudine. Di questo ci vogliamo interrogare, se volete intervenire 800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666. Saluto il direttore del Tempo Mario Secchi, buongiorno direttore. Buongiorno. Come saluto il vice direttore dell'Unità Rinaldo Gianola, buongiorno e ben ritrovato Rinaldo. Buona giornata a voi. Io inizierei Secchi, tra l'altro è stato direttore e vice direttore anche di Libero, anche con lo stesso Belpietro. Insomma, la domanda che si pongono molti è: c'è un rischio di ritorno agli anni bui oppure come inquadrare questo episodio? Ma dunque, intanto che vi sia un clima d'odio e di esasperazione mi pare pacifico, no? Su questo non occorre, secondo me, fare grandi discussioni. Dopodiché i parallelismi storici possono essere discussi, diciamo così, ma il dato di fondo resta quello di una radicalizzazione fortissima, non solo dello scontro politico, questo sarebbe perfino, voglio dire, naturale in una certa maniera, ma dei sentimenti che lo animano. E in particolare del sentimento di contrapposizione, cioè si comincia a odiare l'avversario in una maniera che diventa in alcuni casi psicotica, e alla fine vengono fuori quelli che noi definiremo i matti, cioè quelli che considerano naturale prendere la pistola e far fuori non il politico, perché la politica oggi è debole, ma quelli che in una certa maniera sono una linea culturale, una voce, un pensiero, un'idea, e cioè i giornalisti. È inutile che ci giriamo intorno, cioè se Vittorio Feltri da anni vive sotto scorta, se Maurizio Belpietro da anni deve muoversi accompagnato da un paio di persone, e se molti altri che fanno il nostro mestiere continuano a cominciare a guardarsi le spalle, qualcosa non funziona, è evidente. Tra l'altro, no? Devo dire, ci sono tantissimi messaggi, ma su questo parliamo anche di questo, sia con Mario Secchi che Rinaldo Gianola, tantissimi messaggi di dire: ah, dite presunto attentato, perché? Perché dopo alcuni giorni effettivamente, come racconta anche oggi l'Unità, non ci sono ancora, cioè è un po' un rompicapo quello che è successo, nel senso che per ora abbiamo la testimonianza di questa Guardia del Corpo che dice: ho incontrato questo soggetto, ho fatto fuoco, poi lui si è dileguato, e qualcuno ha anche fatto notare, la stessa Guardia del Corpo che nel 95 sventò un attentato o presunto attentato all'allora procuratore Gerardo D'Ambrosio, anche lì denunciando di aver incrociato una persona che poi si è dileguata. Ma parliamo anche di questo, se volete, insomma, del fatto che ci siano i dubbi su questa vicenda. Rinaldo Gianola, oggi il direttore Concita De Gregorio, inizia il suo tradizionale editoriale così: l'altro ieri un giornalista della rete nazionale mi ha chiamata per telefono per chiedermi in diretta TV se mi sentissi responsabile dell'attentato a Belpietro. Poiché ero in treno e c'era rumore, ho pensato di non aver capito la domanda. Ho detto: scusi, non ho capito la domanda. Il giornalista l'ha ripetuta identica. Vabbè, poi dice: tralascio la risposta, che non deve essere stata, immagino, molto gentile. La telefonata si è conclusa così. Ecco, Gianola, però il clima di odio c'è effettivamente, cioè ormai si è incarognita la politica su questo, il dibattito politico su questo, tra Guelfi e Ghibellini. Ma insomma, che il clima politico sia teso e, come dici tu, incarognito, non ci sono dubbi. Che si però si arrivi ad attribuire, diciamo, un giornale, qualche giornalista, qualcuno che è particolarmente vivace sotto il profilo della critica politica e di quella sociale, che mi sembra la cosa decisamente più interessante in questo momento, che si attribuisca a queste persone la responsabilità addirittura di aver fomentato un attentato, insomma, mi sembra che sia un po' al di là del buon senso. Ma questo però la dice lunga sul fatto che le considerazioni di questi giorni che stanno emergendo sono, secondo me, devianti. Cioè, bisogna stare molto attenti a fare dei parallelismi su questi episodi e gli anni di piombo, perché gli anni di piombo non era, diciamo, una dimensione storica molto lontana da noi, dove c'erano pochi personaggi che agivano nell'ombra cercando di uccidere, di esercitare la violenza per le loro presunte motivazioni e programmi politici. Era qualcos'altro, no? C'era il fenomeno del terrorismo in Italia, è stata una cosa ben più ampia di qualche isolato personaggio. Qui oggi in Italia mi sembra invece che le condizioni, se stiamo al tuo argomento iniziale, siano diverse. E devo dire per fortuna, perché noi veniamo da 3 anni di drammatica crisi economica e sociale, In altri momenti, lo ha detto anche il ministro del Tesoro, il ministro dell'Economia Tremonti, ci sarebbe stata la rivolta nelle piazze. In questi 3 anni non è successo praticamente niente. Vuoi per la responsabilità, diciamo, del movimento sindacale, dei lavoratori che forse viviamo davvero in un'altra dimensione, hanno mantenuto un atteggiamento, devo dire, di responsabilità e in un certo senso socialmente rassegnato, e vuoi anche per l'azione degli ammortizzatori sociali, della politica, delle amministrazioni locali che si sono date da fare per attutire i drammi della disoccupazione e della crisi sociale. Questa è la situazione fino ad oggi. Io cerco di dire subito una cosa, cioè vorrei evitare che si attribuisse a qualcuno la responsabilità culturale, no? Di fomentare un clima favorevole alla violenza solo perché non ci si allinea a un pensiero politico, sociale, ideologico, culturale prevalente, perché altrimenti andiamo tutti quanti a casa. Anche se c'è da dire che ieri, per esempio, il titolo di Libero era questo: chi ci vuole male, cioè mentre Maroni rilancia l'allarme violenza, il Fatto e Repubblica seminano dubbi sull'agguato al nostro direttore. Ecco, questa cosa dei dubbi, Mario Secchi, cioè si può porre un dubbio su quello che è successo? Guarda, i nostri ascoltatori, cioè i messaggi sono tutti, poi sai, un messaggio, uno manda un messaggio, cioè tutti a dire ma dai, ma è una cosa finta, se l'è organizzata, è una montatura, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma scusa, ma io conosco Maurizio Belpietro dal 1992. Abbiamo lavorato insieme, varie interruzioni, perché io poi sono andato a dirigere altri giornali, eccetera, poi abbiamo rifatto insieme la coppia, eccetera. Adesso siamo di nuovo separati, tra virgolette, per 17 anni. Ma secondo voi, un direttore con quella carriera, con quella credibilità, con quella storia politica, culturale, eccetera, ha bisogno di simulare un attentato, spaventando tutta la famiglia, 2 bambine piccole e così via? Ma io trovo abominevole solo pensarlo. Cioè è una cosa vergognosa il solo pensarlo. Il fatto o l'ipotesi che qualcuno... Io ho sentito Belpietro certo. la notte c'è questa cosa, e vi assicuro che aveva la voce di un uomo scosso. Ma di che cosa stiamo parlando? Però vede, questi sono, è anche questo un po' il clima dell'Italia, no? Cioè, subito sono partiti nel giro di poche ore, sono partiti. E trovo gravissimo che si continui a commettere 30-40 anni dopo lo stesso errore che fu commesso negli anni 70, quando si parlava di cani sciolti, episodi isolati, non ci sono organizzazioni. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma siamo tutti impazziti. Ma ve lo ricordate che cosa sosteneva la sinistra sulle BR? E che cosa è dovuto succedere dopo? Siamo allo stesso film, non dal punto di vista del parallelismo storico, ma dal punto di vista dell'errore e del tic culturale conseguente. Cioè dell'idea che nasce così, che i germi sono stati questi anche negli anni. Ma io mi chiedo, ma bisogna avere il salame negli occhi per non vedere le cose. Ma chi ha tirato il fumogeno a Bonanni? Era da solo o era un gruppo organizzato che sosteneva alcune idee e aveva una piattaforma politica davanti? Non degna di essere chiamata tale, ma certamente un'idea politica. E si è fatta passare quell'episodio come una bravata. Ma stiamo scherzando? No, ma su questo, da questo voglio ripartire subito dopo il traffico, per capire se sono appunto cani sciolti, ambienti come li ha chiamati Maroni, legati magari anche alle versioni no global dei centri sociali attenzionati, o se invece parlare di questi cani sciolti, eccetera, è un modo di minimizzare, come dice Mario Secchi, e da qui si partì con lo stesso film anche negli anni di piombo. Tra un attimo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il 65% di voi per ora che sta votando su Radio24.it dice no, non c'è un rischio di ritorno agli anni di piombo dopo l'episodio che ha coinvolto il direttore di Libero Maurizio Belpietro. Sentiamo qualche ascoltatore. Luciano da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno signor Milan, ho letto stamattina quelle poche righe che anticipano tipo nel sondaggio. Sì. Io non sono per niente d'accordo sull'ipotesi che stia ritornando, che stiano ritornando gli anni di piombo. Peraltro, oltretutto, non trovo che sia giusto assimilare alcune azioni di protesta, tipo quella ad esempio del lancio delle uova da parte di alcuni operai a quello che eventualmente potrebbe essere successo al direttore di Libero. Vabbè, ma tutto è diverso, cioè voglio dire, è chiaro che ogni episodio singolarmente è diverso, si sta discutendo se c'è un clima di tensione. Lo stesso ministro Maroni ha detto adesso a ottobre, quando riaprono le fabbriche, quando magari le tensioni sociali, economiche possono ritornare un po' a vivere il loro culmine, dobbiamo fare attenzione. Cioè lei però non vede tutti episodi singoli slabbrati tra di loro, Luciano? Issima che sta attraversando il paese, difficilissima, che coinvolge milioni di persone, ed è ovvio che ci possa essere dello scontento su come stanno andando le cose. La situazione economica è quello che è. Io però vorrei ritornare un attimo. Lei ha avuto l'accortezza poco fa di anticipare tutti quei dubbi che sono legati. Ma sì, guardi, i dubbi, cioè continua, i messaggi che sono solo di dubbi. Adesso la versione che statisticamente io vorrei capire quante possibilità ci sono che lo stesso poliziotto, nell'arco di 15 anni della propria vita di lavoro, ed possa... è un altro dubbio che viene messo dai nostri ascoltatori, cioè l'ha organizzato il poliziotto, che vi devo rispondere? C'è un'inchiesta in corso? Io non lo so, certo stanno indagando, sicuramente ci sono dei dubbi, perché fin quando non si trova la persona, non si scopre da dove è fuggita, ci sono dei dubbi, c'è un'inchiesta in corso in capo alla procura di Milano, all'antiterrorismo, sapranno loro dirci qualcosa. Francesco da Foggia, buongiorno. Buongiorno. Stiamo a parlare per due ore dei dubbi e chi se ne frega dei dubbi, Francesco. Buongiorno. Dica. Senta, io sono invece del parere opposto. Secondo me gli anni di piombo torneranno, certo non ho la sfera di cristallo, ma è molto probabile che possano tornare per le tensioni sociali che ci sono. Non sono d'accordo con chi fa l'analisi che sul fatto che torneranno per il clima di odio politico. No, credo che sia un discorso sociale, cioè nel senso che un giovane su tre è disoccupato. Cioè queste problematiche sociali. Problematiche sociali, il lancio delle uova e il punto sono ancora il modo più civile per protestare. Se quelle istanze non vengono accolte, credo che poi gli estremismi possono essere alimentati. Perfetto. Quindi, Grazie Francesco. Vorrei tornare da Gianola. Rinaldo, qui Mario Secchi dice quel candelotto a Bonanni, le contestazioni a Pietro Ichino a non farlo parlare da parte dei centri sociali, adesso questo episodio, il lancio delle uova, è vero, tra sindacati, cioè la tensione, oggi Repubblica fa due pagine delle tensioni all'interno dei sindacati, no? Le spaccature, certo, che riguardano anche come questa crisi sociale e economica viene vissuta dai vari sindacati. Insomma, cose singole oppure dobbiamo allarmarci? Ma io mi sono allarmato per il fatto che quando i sindacati in questo paese si dividono, sono su posizioni diverse o la dialettica raggiunge dei livelli poco ricomponibile, no? Cioè le persone non si capiscono, ognuno va per i fatti suoi, in Italia succedono spesso delle cose che non vanno bene, no? Mi riferisco esclusivamente a delle tensioni sociali che possono essere ingovernate, no? E quindi quelle azioni anche violente, non solo di protesta o di contestazione, che secondo me sono legittime, perché altrimenti il rischio qual è? Poi che a un certo punto, di fronte al fatto che qualsiasi tipo di contestazione, di fischio, di lancio di uova è tutto terrorismo, è tutta violenza, non si può più fare niente, no? Questo è uno dei rischi. Ma secondo me la cosa più pericolosa in questo momento è che la divisione sindacale rischi, usiamo questa parola, di non governare più una situazione sociale estremamente difficile. Questo lo si è visto nei mesi scorsi. Ho detto che fino a quest'estate le cose sono andate per noi molto bene, perché ad esempio in Italia non ci sono state quegli atti di violenza forti, mediaticamente importanti, che sono successi ad esempio in Francia durante i primi due anni di crisi. Qui da noi abbiamo avuto delle lotte di lavoratori che anche individualmente sono saliti sulle gru o sui tetti, hanno protestato la loro una situazione drammatica di perdita di lavoro, di perdita di occupazione, di perdita di reddito, ma non c'è stato niente che potesse far pensare a un ritorno della violenza in termini preoccupanti per le istituzioni, per il paese. Però che è successo ultimamente? Perché questi episodi, insomma, effettivamente noi quest'anno, se citiamo un altro episodio che c'è oggi sui giornali, Epifani dice che se va avanti così, a fine anno noi ci troviamo con 1 milione di persone senza reddito, scade la cassa integrazione, scade la cassa integrazione in deroga per altre 400.000 persone. Vuol dire che c'è una situazione sociale, oltre ai posti di lavoro che abbiamo perso, c'è una situazione che rischia, diciamo, almeno di sfilacciarsi, no? In un momento in cui, tra l'altro, la politica purtroppo non mi sembra che abbia il bastone del comando e della direzione responsabile del paese, cioè questi stanno litigando su tutto, tutti i giorni. Ieri sera abbiamo appena visto un comizio, assistito a un comizio di Berlusconi che vuole un'inchiesta sui PM, quindi sapete, qui stiamo parlando d'altro. Ora, io ritengo tuttora che dobbiamo essere molto cauti e fare enormi distinzioni tra quello che successe 20-30 anni fa e quello che sta succedendo adesso. E ti dico di più, bisogna fare delle distinzioni tra quelli che hanno lanciato le uova oppure protestano e contestano Sacconi o Bonanni, da quelli che armati di pistola si infilano nella casa di Belpietro. Questo siamo non c'è su dubbio. Livelli completamente diversi. Allora, io ho 20 secondi per chiudere, Mario Secchi, ce la facciamo in 20 secondi. Ieri Feltri titolava: se fai il giornalista e non sei di sinistra rischi. Anche questa distinzione l'ha fatta. È così? Perché? È così. Beh, guarda, non ti racconto le email che ricevo io. Del tipo? Lasciamo stare. Non è il caso di raccontarle, mettiamola così. Ma posso assicurare che sta diventando un mestiere pericoloso. Questo è sicuro. E non da oggi, purtroppo. E mi dispiace che si minimizzi tutto questo, perché non si è compreso evidentemente che cosa sta accadendo. Ma siccome io sono abbastanza giovane, gente più anziana di me che ha visto gli anni 70 e ha visto come è nato il terrorismo, e mi riferisco a quel maestro di Giampaolo Pansa, forse è il caso di consultarla per capire come succedono queste cose e di rileggere bene alcuni libri e alcune autocritiche fatte allora, per esempio da Giorgio Bocca e così via. Stiamo sulla stessa medesima strada dell'errore. È diverso il contesto, è diverso anche il clima, se volete, ma l'errore è quello. È uguale. Allora, ci dobbiamo fermare qui, ringraziando Mario Secchi, direttore del Tempo, e Rinaldo Gianola, vice direttore dell'Unità. Ci fermiamo. Grazie a Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia. Do la linea Oscar Giannino. Oggi ospite il sindaco di Milano, Letizia Moratti. E allora, che dire, noi ci troviamo invece domattina alle 7:20, 24 mattino, e tradio24.it.